Incontri di Gianfranco Fabi. Con queste note, con questa voce di Bruce Springsteen, Born to Run, iniziamo Incontri di oggi. Buongiorno, buona domenica, buon pomeriggio a quanti ci ascoltano. Buongiorno e buona domenica a Riccardo Ardemagni. Buona domenica. Born to Run, nato per correre, è un po' il suo motto? Sì, sicuramente è una cosa che mi spinge a essere attivo nella vita privata e nella vita professionale. Un qualcosina di più è Born to Run, Bruce Springsteen, ricorda anche il concerto, uno dei primi concerti visti a 18 anni a Milano il 21 luglio, nel mese di luglio dell'85, quindi mi ricorda gli anni di scuola, gli anni di università, gli anni, begli anni 80 che per chi li ha vissuti, sì, anche dal punto di vista musicale molto interessante. 30 anni fa, anni, quindi quando iniziava anche la sua carriera a correre, non solo in senso fisico, non solo in senso reale, correre anche in senso metaforico, correre nel mondo degli affari, delle società, delle imprese. Adesso è amministratore delegato della filiale italiana di Siemens Enterprise Communication. Ecco, cos'è Siemens Enterprise Communication? Siemens Enterprise Communication è un'azienda del gruppo Siemens che si occupa di telefonia e di telecomunicazioni. È chiaro che oggi parlare di telefonia e di comunicazioni è riduttivo, visto che si parla di social network, si parla di presenza, si parla di altro modo di comunicare, e quindi Siemens, la grande evoluzione che sta facendo è portare tutto ciò che era fisso sulla propria scrivania nel mondo mobile, nel mondo dei vari telefonini, smartphone che oggi ci controllano. Però non fa gli apparecchi. No, fa gli apparecchi per la telefonia, certo. Cioè anche quelli che uno può comprare nei negozi normali, no, sono non facendo nomi, non so, Nokia. Esatto, ecco. Esatto, no, dedicati all'azienda. Cosa fa per questi altri signori? Fa tutta l'infrastruttura che permette all'azienda di essere più efficiente usando le nuove tecnologie. Le faccio un esempio molto interessante, per esempio il fatto oggi, i ragazzini poi lo sanno molto bene quando usano Skype, di vedere la presenza dei propri collaboratori attraverso uno smartphone, che può essere un iPhone o un Nokia, eccetera, eccetera. Ecco, questa cosa dal punto di vista consumer lo si vede con Skype, dal punto di vista invece aziendale si vede con le nostre applicazioni, perché è un altro termine che oggi va molto di moda, le applicazioni che permettono all'azienda, alle varie persone dell'azienda, di poter interagire in modo più proficuo. Ecco, facciamo un passo indietro, torniamo agli anni 80. Gli anni 80, com'era la realtà delle comunicazioni in quegli anni? Beh, gli anni 80 erano gli anni del telefono. Erano gli anni dove i nostri genitori ci dicevano di staccare, perché stavamo magari 3 ore al telefono e quindi tenevamo occupata la linea. Gli inizi degli anni 80 erano gli anni ancora del duplex in alcune famiglie. Quindi guardiamo cosa è successo in questi 30 anni. Oggi i ragazzini hanno il pollice veloce. Certo. E quindi utilizzano altri tipi di modi. Era pensabile solo nei film di fantascienza avere la realtà che abbiamo adesso. Ma come le è venuta l'idea di occuparsi di queste cose, appunto, facendo il liceo e poi l'università? Beh, sicuramente la tecnologia mi è sempre appassionata. Mi è sempre appassionato molto l'innovazione. Io sono sempre, in quegli anni 80, uno dei primi utilizzatori del famoso Commodore. Il famoso Commodore 64. Quindi, e mi piaceva termine che si usa smanettare con questi oggetti, e quindi successivamente mi sono buttato all'università e quando uscito mi sono per caso trovato in una situazione tecnologica che poi non ho più abbandonato. I miei studi non sono tecnologici, però la gestione, la vendita, gli affari mi hanno sempre appassionato. Ma fin da piccolo. Quindi diciamo la sua origine, la sua vocazione è più sul fronte del marketing che non di quella della ricerca? Diciamo che più sul fronte del marketing, della vendita, del posizionamento, dell'incontro, del proporre la tecnologia. Quindi ha avuto esperienze in aziende diverse, in aziende però proiettate molto nello sfruttamento di queste opportunità tecnologiche. Sì, io ho avuto esperienze partendo dalle aziende che vengono chiamati distributori, grandi integratori, che poi propongono sul mercato le aziende questi prodotti, quindi li integrano per fare il meglio per l'azienda che poi lo utilizza, come può essere ad esempio il Sole 24 Ore, che ha un impianto tecnologico molto, molto importante. E poi mi sono spostato dal produttore, quindi sono passato alla famosa Digital Equipment, che era la grande azienda americana, per poi entrare in un'altra azienda molto famosa degli anni 90-2000, che era Tricom, che poi ha acquistato Yos Robotics, che poi si è spostata, quando c'è stato lo sviluppo di internet, quindi quando tutti noi acquistavamo un modem per poterci collegare, e quindi la spinta di internet mi ha poi lanciato in modo interessante, poi mi ha sempre di più appassionato, finché non questa ultima esperienza in Siemens Enterprise. Ecco, in questa prospettiva lei ha parlato di molte aziende, tutte americane, tedesche, ecco, l'Italia c'è poco, come mai l'Italia c'è poco in questo settore? Ha perso un po' il treno di questa evoluzione tecnologica? Allora, distinguiamo, personalmente mi sono trovato, e quando ci si trova a capire, a gestire, a essere in ambito multinazionale, generalmente si sta in questo ambito. Personalmente, chiaramente, penso che anche un'esperienza... Le esperienze italiane non sono da sottovalutare, anzi abbiamo delle eccellenze anche nel nostro paese che non vanno perse. Le aziende italiane non hanno perso grip, non hanno perso movimento, devono soltanto born to run. Ecco, si corre, devono imparare. Ecco, è un'innovazione che ha assunto anche dei ritmi un po' troppo frenetici. Ormai una generazione di telefonini quanto dura? Quanto, 6 mesi? 4 mesi? Quando va bene. Quando va bene. Cioè non c'è un po' troppo frenesia in questa evoluzione tecnologica? Una ricerca forse di andare al di là di quello di cui c'è bisogno? Questo è il mercato, c'è stato veramente, e lo vediamo non solo nella parte telefonia ma in altre tecnologie, se guardiamo il televisore per esempio, no? Quando si è spostati dal tubo catodico allo schermo piatto, adesso ogni 3 mesi c'è un televisore nuovo. I telefonini seguono una rapidità maggiore, noi stessi andiamo a cercare la qualità e l'utilizzo del telefonino è, in termini di attività che facciamo col telefonino, è quintuplicato, se vogliamo, no? Quindi cerchiamo la qualità d'immagine, per esempio, l'alta definizione. Ma ne abbiamo bisogno di tutte queste cose? Ne abbiamo veramente bisogno? Oppure a un certo punto dobbiamo magari pensare, ecco, magari contro i suoi interessi professionali, da amministratore delegato di una grande impresa, dobbiamo pensare di fare, magari di fermarci un attimo? Lo dico anche sulla mia vita, tenendo conto della vita personale, la vita privata. Preferisco essere ben collegato in mezzo al mare, quindi poter dare risposta, mandare 2 mail e farlo in mezzo al mare, che farlo in un ufficio con davanti un monitor e uno schermo. Quindi è vero, d'altra parte hai essere disponibile, che potrebbe essere una limitazione, però noi abbiamo un'altra cosa che funziona molto bene, non solo i ragazzini ce l'hanno, il pollice. Col pollice è possibile spegnerlo ogni tanto, mettersi, come si dice, in stand-by e poter alzare la vela e poter partire, ecco, e stare con la propria famiglia. Hai prodotto un elemento appunto magari di vita privata, ne parleremo magari nella seconda parte delle sue passioni, però appunto ecco, la capacità di essere in mezzo al mare, di avere delle opportunità ma anche avere in fondo la forza di non usarli, di non mettersi all'interno della barca e a guardare internet quando c'è magari un bellissimo tramonto da guardare sul mare. Quindi c'è bisogno forse di recuperare anche in questa, sul fronte tecnologico, un po' di capacità di essere protagonisti sempre come persone all'interno delle opportunità che ci offre la tecnologia. Non si sente un po' responsabile di questo? No, anzi, secondo me è un grande aiuto. Ma non lo dico perché vendo questa tecnologia o perché produciamo questa tecnologia, ma per la flessibilità dell'utilizzo, che ci dà la possibilità di saperlo gestire. È chiaro che poi c'è la frenesia, ecco. Su questa, è il mondo esterno che preme su di noi. E ripeto, sta molto al nostro io poterla mettere in stand by. C'è una graduatoria di frenesia tra i giovani, i meno giovani e quelli non più giovani? Ma sa cosa sto vedendo? Che la frenesia sta diventando, soprattutto del fatto di essere connessi, sta coprendo tutte le generazioni. Se guardiamo con chi siamo collegati in Facebook o in altre, vediamo una diversità di generazioni. E oggi siamo... Verifichiamo questo anche ovunque, anche se siamo al supermercato, vediamo se ci hanno mandato un tweet. Incontri. Ancora con le note di Bruce Springsteen, Born to Run. Buongiorno, buon pomeriggio a quanti ci ascoltano. È Riccardo Ardemagni, amministratore delegato della filiale italiana di Siemens Enterprise Communication. Abbiamo parlato nella prima parte di questa tecnologia con un'innovazione un po' frenetica che ci coinvolge, che ci prende, che ci fa appunto cercare di andare sempre più avanti verso nuove opportunità, nuove possibilità, e la tecnologia ce le offre. Abbiamo parlato anche del fatto appunto che la tecnologia tecnologia è una grande opportunità anche appunto in situazioni complesse, e accennava appunto a chi è in mezzo al mare, e allora diciamo uno dei suoi hobby è andare per mare. Sì, è una passione nata alla fine degli anni 90, a parte il mare in sé, ma non navigando, è sempre stato uno dei miei dei posti che frequento fin da bambino. Vuoi che siamo vicini alla Liguria e quindi... Quindi lei è milanese ma o ligure? Io sono milanese, sono milanese, ma sono di quei milanesi che per famiglia vive, ha vissuto la sua infanzia spesso al mare, nella, in una bella zona della Liguria che si chiama Camogli. Sì, per molti Milano è la periferia di Genova. Esatto, e quindi questo mi porta al mare, mi porta a prendere una decisione, iniziare a lasciare gli ormeggi, a studiare, a prendere la patente nautica e iniziare questo percorso che oggi mi ha permesso di essere autonomo, indipendente, con la mia famiglia in mezzo al mare o con gli amici in mezzo al mare. Questo lo si fa, la cosa bella che oggi con le varie possibilità che si hanno si possono fare in tutte le parti del mondo. E proprio tornando al discorso che facevamo prima, è il distacco, lo stacco completo da quello che è la terraferma, da quello che è la frenesia. Posso distaccare, ma posso in ogni momento decidere di riattaccarmi. Sì, questa è la tecnologia. Ripeto, purtroppo chi lavora in una multinazionale deve riferire ai tempi della multinazionale. Spesso i tempi della multinazionale non sono i tempi dell'Italia, e quindi in agosto si lavora e quindi bisogna dare risposta, giustamente siamo una grande comunità internazionale, per cui bisogna sapere anche dialogare con le altre comunità. Quindi. Apriamo una parentesi, in questa realtà multinazionale, multitecnologica, qual è il posto più bello dove è stato con la sua famiglia per mare? Il posto più bello sono diversi, perché poi ogni angolo, ogni rada evoca un qualcosa. È banale dire le Granadine, che sono i Caraibi. Ed è altrettanto banale, potrebbe essere la baia davanti a Portofino, per esempio, che però sono due immagini completamente diverse, la Croazia, ogni angolo, cioè le incoronate hanno immagini diverse, chi sta in mare vede ogni spunto, ogni angolo, un'emozione particolare. Lei ha parlato della sua famiglia, mi pare che abbia due figlie. Ho due bambine, sì. Cosa spera che facciano da grandi? Questo... che portino avanti le passioni che stanno costruendo. Una ha 6 anni, ha iniziato la scuola quest'anno, ha di fronte un ventaglio di opportunità, si sta iniziando a costruire, l'altra è piccolina, 6 mesi, quindi avrà tutto il tempo per costruirle. Certo. Noi oggi vediamo quella di 6 anni che potrebbe avere delle inclinazioni, potrebbe avere delle opportunità, però è ancora presto. Io penso che sarà lei poi a gestirsela, a curarsela. Come i miei genitori non hanno mai spinto nessuno dei nostri, io sono l'ultimo di 3, verso dove andare, è giusto che noi sicuramente faremo così anche con la... Ecco, con la allora, parliamo ancora dei giovani magari più rivolti verso l'azienda, un'azienda appunto innovativa, un'azienda tecnologica come la vostra. Come sceglie i giovani? Cosa offre ai giovani e che cosa dice lei a un giovane che entra per il primo giorno in azienda? Beh, io racconto la mia esperienza, perché io ho iniziato, forse una cosa che potrebbe essere un po' rara, ho iniziato senza pensare di prendere uno stipendio. No, che è un qualcosa, non era l'obiettivo lo stipendio, c'era un periodo di crisi e mi hanno detto se vuoi vieni a vedere come funziona, forse un po' old fashion come mentalità, però ti permette di fare il salto da quella che è l'università e il mondo del lavoro, di capire che la logica, le dinamiche sono completamente diverse, l'opportunità che sia entrare in azienda, al ragazzo sveglio, la ragazza sveglia, è quello di percepire il più cose possibili per poi metterle in atto. Raccontando la mia esperienza io cerco di dare ottimismo, cerco di dare prospettive positive, perché dico, se ha funzionato per me, perché non è che sia un mago, cioè, ecco, può sicuramente funzionare per gli altri. Questa fase è una fase un po' di crisi, un po' di ristrutturazioni aziendali, anche le aziende molto molto tecnologiche, molto avanzate, stanno cercando di ridurre i costi. Le stesse tecnologie a volte uccidono se stesse, cioè rendono possibili di fare delle cose che prima si facevano con 100 persone e poi si fanno con 10. Quindi ecco, non è una prospettiva che rischia di essere, non dico pessimistica, però con meno opportunità del passato? È un po' una provocazione. No, sto pensando invece al fatto che è vero, la tecnologia, anzi sicuramente, perché noi vendiamo proprio sistemi che permettono di ottimizzare il modello di comunicazione, fare come quello del saving, fare del risparmio, però permettono anche di essere flessibili, di poter aprire uffici a un costo minore rispetto al passato. Siamo quelli che stanno costruendo la nuvola, no? Oggi un altro elemento, oltre alle applicazioni, del quale si sente molto parlare. D'altro canto c'è una generazione di nuove opportunità. Io non vedo mai tutto negativo, perché abbiamo visto nella storia che non è la prima volta che ci sono state delle rivoluzioni L'umanità si è sempre adattata a costruire delle nuove opportunità di lavoro. Le nuove generazioni si stanno adattando. È entrato internet, abbiamo creato i webmaster, abbiamo creato chi fa le pagine, appunto le pagine HTML, pagine web. Abbiamo creato intorno dei professionisti che prima non c'erano e ne abbiamo tolti altri, che però si occupano magari di altre attività. Non è mai stato una catastrofe. Certo. Oggi lo vediamo forse in maniera più pessimista perché siamo di fronte a un momento di difficoltà. Certo, non bisogna ostinarsi a produrre le macchine fotografiche con le pellicole. Ecco, questo sarebbe restare attaccati al passato. Ci sono delle nuove opportunità, magari appunto, che prevedono una diversa organizzazione del lavoro, una diversa partecipazione al lavoro. Ecco, in questo senso si parla molto appunto delle opportunità del telelavoro, però di fatto le esperienze sono ancora poche, sono ancora forse marginali. Ma questa è una, vedendo un ambito multinazionale, noi siamo molto attaccati alla, noi vogliamo socializzare in ufficio, che voglio dire, è una delle nostre attività, noi siamo i grandi parlatori europei, secondo noi, no? Però le aziende le usano. Il fatto di avere una flessibilità, di poter essere, di fare lo stesso lavoro nella propria abitazione ed essere connesso in modo dati e vocale alla tua azienda come se tu fossi nel tuo posto di lavoro, oggi è un'attività che si fa tranquillamente. Ecco, ma si fa, nel senso, se c'è la possibilità di farla. Beh, molti call center sono remoti, cioè noi non lo vediamo, ma molti call center che noi chiamiamo non immaginiamo più uno stanzone con 1000 persone che sono al telefono. Spesso e volentieri sono all'interno della propria abitazione con la cuffietta e il suo sistema di telefonia IP, quindi telefonia internet, certo, che permette di poter comunicare col proprio PC in rete come se fosse sul posto di lavoro. Questa attività viene normalmente effettuata. E questo non si vede, quindi non si vede, non si vede, uno dice dove sono, anche, ma quando ti fanno le interviste, ti chiamano certo, alle 8 di sera mentre stai cenando, provendo qualsiasi cosa, questi signori spesso e volentieri sono a casa loro. Sono a casa loro, magari sono a 100.000 km di distanza da altre parti del mondo. Sì, no, gli italiani, sì, anche gli italiani, per esempio ci sono nelle multinazionali call center che fanno attività di telemarketing con ragazzi, studenti italiani a Londra, per esempio. Qual è il prodotto, l'evoluzione, il servizio che voi state studiando e che sarà una delle prossime future evoluzioni? Noi stiamo lavorando su tutte le applicazioni che portano ad avere il cloud voce. Cioè oggi la flessibilità sta nel fatto, se un'azienda ha intenzione di prendere dei servizi, li prende quando effettivamente ne ha bisogno. Cioè pago come un po' la pay per view, pago quello che voglio, quello che ho bisogno. Quindi se io voglio telefonare, avrò un mio telefono, un mio accesso telefonico. Se vorrò avere dei servizi di unified communication, quindi di presenza, di web collaboration, ovvero di poter condividere fogli e immagini con altre persone, di videoconferenza, ognuno di questi servizi li vado a pagare. Non ho bisogno di portarmi in casa tutta una serie di infrastrutture, quindi costose, che consumano energia, ma l'avrò disponibile all'interno della rete, a seconda delle mie necessità. Faccio un incremento di necessità perché io produco gelati e quindi ad agosto voglio che i miei clienti siano colpiti, siano catturati da delle attività di marketing, allora incremento soltanto per quel periodo, per quel mese, il costo dell'accesso. Dopodiché torno, quindi questa flessibilità è importante e quindi il cloud voce, il cloud dei servizi è una delle attività che stiamo portando, sì, insieme alla video e alla web collaboration, che permette ai telefonini che oggi noi abbiamo in mano di poter condividere maggiori informazioni rispetto a quelle che abbiamo noi oggi. Ho capito. Quindi la possibilità di dare il più possibile di servizi con minor complessità anche da parte dell'utente, con un solo apparecchio, un solo apparato, poter accedere a tante cose. Assolutamente, ecco, ho detto giustamente, con un solo apparato che sarà quello che noi decidiamo. Può essere il telefono che oggi ho qui sulla scrivania Radio 24, può essere il mio telefono di casa, può essere il mio smartphone che ho in tasca, o il telefono della casa al mare, o della barca, o di quello. Sono io che decido dove decide sono. Decide se lei ha bisogno di completare una ricetta di cucina, se telefonare, sì, alla mamma, oppure se andare su internet, esatto, a vedere. Esatto. Queste. E a proposito di ricette di cucina, qual è la sua ricetta preferita? Sicuramente uno dei piatti che preferisco sono quelli di mare. Sono appassionato di cucina e mi piace anche rivoluzionare lo standard, e quindi e se viaggio mi piace soprattutto italianizzare anche cucine esotiche. E qual è il piatto che esempio, ha scoperto viaggiando che gli è piaciuto? Io, ci sono dei paesi dove utilizzano il cocco per fare il pesce e quindi la nostra spigola, al posto di fare l'acqua pazza, che è una delle ricette italiane amate da noi, quindi di farla come la fanno nei paesi polinesiani mettendoci il cocco, e che è, secondo me è un equilibrio giusto. Un consiglio quindi anche per i nostri ascoltatori, speriamo di non aver appunto rovinato la digestione, no, anzi, facendo venire un po' di appetito però magari in questa prospettiva. Grazie a Riccardo Ardemagni, amministratore delegato di Siemens Enterprise Communication, di essere stato con noi questo pomeriggio. Grazie anche a Luca Cremonese e Stefania Tagliaferri in redazione, a Peter Bascapè in regia. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.